Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz e modulazione di frequenza stereofonica da Bologna e naturalmente anche nel web, potete tranquillamente andare sul sito radiocittafujiko.it per scaricare la app che vi consente di ascoltarci in tutto il mondo. Tutto live, la trasmissione che facevo una volta, Città Fujiko Live Club, invece quella che va in onda tuttora dalle 10.30 alle 12.30 sulla frequenza di appunto Radio Città Fujiko e tutti i mercoledì un paio di ore di musica dal vivo che si occupa di farvi ascoltare brani di tutte le epoche e di tutti i generi musicali. Mi sono impappinato perché vi volevo dire che potete tranquillamente andare sul sito, lo ripeto, Città Fujiko Live Club, radiocittafujiko.it. Stamattina ho cominciato malissimo e per vedere le modalità anche per abbonarvi a Radio Città Fujiko, abbonamento che ci permetterà di continuare nella linea editoriale, nella linea musicale della radio, che è sempre libera senza nessuna ingerenza esterna e che quindi ha bisogno di supporto soprattutto economico, a dire il vero. E ci sono 4 modalità di abbonamento: bonifico semplice per la radio, troverete gli estremi per fare il bonifico sul sito naturalmente radiocittafujiko.it, il crowdfunding anche potete elargire quello che potete. Ci sono 4 modalità, 4 importi per meglio dire, 25, 50, 100 e 150 euro. Se andate sulla piattaforma Produzioni dal Basso troverete appunto anche il link campagna abbonamenti di Radio Città Fujiko che vi permetterà appunto di aiutarci economicamente, così come potete farlo venendo in radio, che è la cosa che vi raccomando, così ci conosciamo, ci vediamo di persona. Se venite il mercoledì ci sono anch'io e quindi potremo parlare un po' di musica insieme. E poi c'è il RID bancario, che è una modalità che ogni anno vi permette, senza pensieri, date mandato alla banca, di accreditarci l'importo che volete fra i 4 che vi ho detto e quindi dopo potete tranquillamente rilassarvi e non pensare più a questa incombenza. Sempre sul sito della radio potete tranquillamente trovare gli eventi che ci saranno prossimamente a supporto appunto di questa campagna abbonamenti. Ce ne sono diversi in tutti gli angoli di Bologna, per cui appunto vi invito a radiocittafujiko.it per maggiori chiarimenti. Prima di cominciare, dopo avervi parlato della campagna abbonamenti, voglio parlarvi di un evento che esula dalla campagna abbonamenti della radio, non c'entra assolutamente niente, anzi, ed è una cosa un po' particolare, che si svolgerà domenica 4 dicembre alle 17 presso la parrocchia di Sant'Antonio da Padova alla Dosta, naturalmente in via della Dosta 5/2. È una un incontro che ha come tema il Vangelo nelle canzoni di Bruce Springsteen. Una cosa un po' particolare, non avrei mai pensato di sentire una cosa del genere. È un incontro che avverrà con Luca Miele, che è autore del libro Il Vangelo secondo Bruce Springsteen, e Don Giuseppe Scimè. Ci saranno foto, video, appunto speeches, insomma tante tante cose. Il presentatore della serata, che è anche l'organizzatore, si chiama Giacomo Fabiole, o Fabiole, non so esattamente l'accento. E per come ciliegina sulla torta, alla fine di tutte queste chiacchiere ci sarà un aperitivo per tutti i presenti. Lo ripeto, domenica 4 dicembre alle 17 presso la parrocchia di Sant'Antonio da Padova alla Dozza, via della Dozza 5/2, il Vangelo nelle canzoni di Bruce Springsteen. Andiamo ora ad iniziare ufficialmente la trasmissione. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, e anche oggi non siamo da meno. Una novità che è una ristampa, come molte, molte cose che vi faccio, che vi propongo come novità nella trasmissione. È un album che si chiama Up the Bracket, che uscì originariamente il 14 ottobre del 2002. È stato ripubblicato in due CD il 21 ottobre del 2022, quindi 20 anni esatti dopo. Up the Bracket, che era l'album d'esordio di una band che si chiama tuttora, perché sono tornati insieme, Libertines. Appunto, loro sono stati attivi dal 97 al 2004, poi hanno avuto un po' di problemi di carattere personale più che musicale e sono sciolti, ma si sono riformati nel 2014 e sono attivi tuttora. L'album Up the Bracket, che fra parentesi è stato prodotto da Mick Jones dei Clash, è stato ripubblicato appunto in versione 2 CD, perché allegato c'è un album live, una registrazione di un concerto che si è svolto allo 100 Club di Londra, quel club che è in Oxford Street. Se siete stati a Londra, siete stati sicuramente in Oxford Street e ci siete sicuramente passati davanti. Si chiama 100 Club perché è appunto al numero 100 di Oxford Street. Il concerto si è svolto il 4 ottobre del 2002 e appunto viene immortalato in questo secondo dischetto che forma la riedizione di Up the Bracket dei Libertines. Ci andiamo ad ascoltare, dopo tutte queste chiacchiere, un pezzo che si chiama Time for Heroes. Loro sono Libertines. Did you see the stylish kids in the riot? We were shoveled up like monkeys in the night on my own with blue. But put the shields, you know I cherish you, my love. The rumors were passing the keys around town. You fought round the houses with your trousers down in the front. This, you know I cherish you, my love. Oh, how I cherish you, my love. But tell me, what can you want if you've got it all? And the scene is it seems how much you made it. Oh, he knows what I mean, he knows it needs and cure me up, it's not on the young ones to be careful of blood, it's all in my hand. Of course, and now the scales fits her up and the host fits her down. It keeps me the good faces, they bring her down on the back. Yes, I'll pass myself down on my knees. Tell me, what can you want? Oh, you've got it all. She says it succeeds. I must strip it away. Here every day, I'll go home. He knows what I mean. He knows it's pure more distress and sights than that of an Englishman and a baseball cap and a guy in the class of the ball. Last of our own. devil, the black monk, said the man on my woman's blue. Not just a kid. Sono sempre stati capitanati dai due leader che hanno fondato i Libertines, Carl Barat, cantante e chitarrista, e Pete Doherty, idem, cantante e chitarrista, e sono loro due che hanno dei problemi anche interpersonali dovuti spesso all'uso, stavo per dire stupefacente, di droga, ma era una frase un po' così. Loro sono diventati, secondo me, molto più famosi come drogati che come musicisti, a dire il vero. C'è questa alone di, non so come dire, di bellezza nella maledizione della droga. Infatti Pete Doherty soprattutto ha addirittura messo in rete dei filmati nel quale si drogava anche con la sua fidanzata di allora, Kate Moss, e questo destò molto molto scalpore. Comunque si sono riformati, sono in giro tuttora e hanno, come dicevo, ripubblicato questo Up the Bracket, il loro album d'esordio, con annesso Live the 100 Club, che è il dischetto dal vivo che vi ho fatto ascoltare. Il brano, come vi dicevo, si chiama Time for Heroes e mi offre il destro per ascoltarci in questa prima parte di Città Fujiko Live Club, una serie di brani che parlano di eroi. Naturalmente non staremo a disquisire sui testi, non staremo ad analizzare i testi, perché altrimenti ascolteremo poca musica e parleremo un po' troppo. Sto parlando al plurale, ma sono sempre solo io, comunque scusatemi, oggi è una giornata così. E appunto ci ascolteremo questo insieme, brani che parlano di eroi, e il primo è il brano classico che parla di eroi. Sto parlando di David Bowie e la sua Heroes, che però ce l'abbiamo ascoltare in un'altra versione, non di David Bowie. Forse non tutti voi ricordano che nel film Godzilla, film del 1998, era inserita una versione in studio dei Wallflowers, la band che da band globale è diventata il progetto solista di Jacob Dylan, figlio di tanto padre, chitarra e voce. Ed è dal 1989 arrivato fino ad oggi, trasformandosi però appunto in un progetto solista di Jacob Dylan, anche se il nome Wallflowers è rimasto. Appunto, dicevo, in questo Godzilla nella colonna sonora era inserita una versione in studio di Heroes, che però è stata poi riproposta dal vivo in un dischetto che vede appunto Heroes in studio, un altro brano live che si chiama Invisible City e Heroes di David Bowie. Loro sono Wallflowers. Now a song from John Lennon. This is the Working Class Hero. C'è stato un periodo in cui David Bowie ha abbandonato la carriera solista, ha fondato una band che si chiamava Tin Machine, band che non è durata tantissimo, dal 1988 al 1992, ma naturalmente era lui il leader della band e tutti andavano a vedere Tin Machine per vedere lui, anche se sono stati veramente una grande band con una serie di musicisti tostissimi e una musica molto aggressiva. Come ha detto lo stesso David Bowie nell'introduzione, questo era un brano di John Lennon che spero conosciate tutti, si chiama Working Class Hero e lo trovate in un album che non è in vendita nei negozi, è scaricabile solamente da internet, naturalmente purtroppo pagamento, ma comunque è un album che è stato registrato a L'Echigal, un locale di Parigi, che spero che si dica così ma non ne sono sicuro, e che è stato pubblicato nel 2019, esattamente 20 anni dopo il suo avvenimento. Infatti era il 25 giugno dell'89 quando i Tin Machine eseguivano questa Working Class Hero in quel di Parigi. E fra l'altro c'è anche questa, che Maggie's Farm è un'altra storia. È paradossale che l'unico album dal vivo di una band super elettrica come i Foo Fighters sia un album acustico, fra l'altro un album che è uscito nel 2006, quindi tantissimi anni fa, e sarebbe ora che ne facessero un altro, magari in memoria del loro batterista Taylor Hawkins, che come certamente saprete perché ha avuto una copertura mediatica notevole, è deceduto qualche mese fa. E Skin and Bones si chiama l'album acustico dei Foo Fighters, è stato registrato a Los Angeles nell'agosto del 2006 appunto, e pubblicato nel novembre dello stesso anno. Ci andiamo ad ascoltare questo brano che certamente conoscerete, che si chiama My Hero. Loro sono Foo Fighters. Talk about, take those pictures down, check it out. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. driving through my hometown. I was just kind of killing time. I seen a face staring out of a black velvet painting from the window of five and dime. Couldn't quite recall the name, but the pose looked familiar to me. I asked a sales girl, who was that man between the Doberman and Bruce Lee? She said, just a local hero. Local hero, she said with a smile. He's just a local hero. He used to live here for a while. On your soul, can be safe. There's beautiful women, nice and long living, and someday just wanted to be here. There's a big town, cross a whiskey line. If we turn the right cards up, the maker's boss, the devil pays off, and the folks that are real hard up. Had lost all sensation. These days I'm feeling all right, except I can't tell my courage from my desperation. From a teenage jealous, well, I drunk some heady wine. Tonight I'm laying here, but there's something in my ear says there's a little town just beneath the floor. Questo brano si chiama Local Heroes, l'eroe locale, e non c'è dubbio che Bruce Springsteen sia un eroe locale in quello del New Jersey, forse ancora qualcosina di più. E qui avevamo il vecchio Bruce insieme alla High Street Band in quel di Leeds, United Kingdom, il 24 luglio del 2013, uno dei tanti bootleg ufficiali che potete trovare in rete di Bruce, che per anni ci ha tenuto in maniera ristrettissima con le cose dal vivo. Poi fortunatamente una decina d'anni fa ci ha mollato, come si suol dire, fra virgolette, e adesso le sue cose live sono veramente tantissime. E a proposito di Bruce Springsteen, vi ricordo questa cosa molto particolare che si svolgerà domenica 4 dicembre alle 17 presso la parrocchia di Sant'Antonio da Padova alla Dosta, il Vangelo nelle canzoni di Bruce Springsteen, un incontro fra Luca Miele, autore del libro Il Vangelo secondo Bruce Springsteen, e Don Giuseppe Scimè, che pare sia uno springsteiniano convinto. Foto più video e per finire l'aperitivo che non guasta mai. Calmiamo un po' le acque dopo l'invadenza, come sempre, o quasi, di Bruce Springsteen. Andiamo a un altro grande personaggio che ha fatto la storia della musica rock, che si chiama David Crosby. Ha fatto la storia della musica rock, prima insieme ai Byrds, poi insieme a Crosby, Stills and Nash, poi si aggiunse anche Young in un secondo tempo, e insieme ai suoi CPR, anche questi però, anche se questi non sono proprio da storia della musica rock, ma erano lui, Jeff Peaver, il chitarrista, e Raymond, non ricordo il nome, che si scoprì lui, David Crosby, ma anche Raymond, lo scoprirono insieme. Erano padre e figlio, ma fino a pochi anni prima della registrazione di questo album, dell'album dei CPR, non lo sapevano. Comunque, questo invece che ci andiamo ad ascoltare si chiama It's All Coming Back to Me, sta tutto tornando a me, ed è stato registrato a Hollywood al Whiskey Go Go nel dicembre del 1993. Fra parentesi, di David Crosby uscirà prossimamente un nuovo album live che si chiama Live at the Capitol, che vede la presenza anche di Michael League, bassista e leader degli Snarky Puppy, quindi si preannuncia una cosa molto interessante. Però intanto andiamo ad ascoltarci David Crosby, il brano si chiama Hero. red stories that you can't put down at night. The hero knew what he had to do, and he wasn't afraid to fight. The villain goes to jail while the hero goes free. I wish it were that simple for me. It were that simple for me. E qua partono con il brano successivo, ma a noi interessava questo Time Loves a Hero, uno dei brani di punta della produzione dei Little Feat, contenuto in questo splendido album che si chiama Waiting for Columbus, un album spettacolare, considerato uno dei migliori album live della storia. E posso essere assolutamente d'accordo, malgrado sia assemblato da diversi concerti, è messo in sequenza in modo che risulti un concerto intero. A questo proposito, come vi dicevo, l'album originale, che era un doppio vinile, fu tratto da tre concerti dei Little Feat, due a Londra e uno a Washington, e recentemente è uscito un cofanetto che racchiude, oltre al doppio CD originale debitamente rimasterizzato come dicono sempre, ma altri sei CD che racchiudono i tre concerti da cui sono stati tratti i brani che formavano l'edizione originale. Una cosa forse non mi sono spiegato tanto bene, ma fatto sta che sono 8 CD fantastici, assolutamente fantastici. Purtroppo per chi come me ha già il doppio vinile e il doppio CD è un po' un problema economico, e soprattutto, anzi solamente economico, quello di acquistare il cofanetto di Waiting for Columbus in maniera integrale. Dovrebbero fare le case discografiche, ma sto sicuramente maneggiando, tipo quando compri un'auto, dai dentro l'usato. Tu vai a comprare il cofanetto di 8 CD e gli dai il doppio CD, o addirittura anche il doppio long play se vuoi, in modo da avere uno sconto su quello che è il cofanetto. È assolutamente un'utopia, lo so benissimo. Le case discografiche purtroppo non sono in giro per fare beneficenza, e ne approfittano assolutamente. Times of a Hero, Little Feat, il brano che ci siamo ascoltati. A concludere questa piccolissima rassegna dedicata a brani che parlano di eroi, arrivano gli Little Fingers, che ci dicono che non vogliono essere gli eroi di nessuno. Nobody Heroes, da questa super band nel senso di fantastica band irlandese. Steve Little Fingers, Nobody's Heroes. I'm too slowly, sharply, down the track, in miles of two days. There's a scream. Scream! Pointed in my head! Then like a dream, like locusts, glad to my bones. And then when she said, oh, you will shoot me. She said, I'll show you a picture, tomorrow. There's nothing changing, it's just subway. Well, no! Please don't show me! I'm a twangler, you don't wanna know me! Follow with your mind's instructions on how to solve the problem. Stop with myself to be dead. It's a scrunch. Scrunch! Pointed at your head. Just lay me down, just lay me down. And I'll put it out. Oh, no, let it go. It's a horror show. It's coming around. On the ground. Following your mind's instructions, how to solve it. Jobless for myself to say, if there is a screw pointed at my head, pointed at you, lay me down, please lay me down, put me down, oh, now let it all go. The whole thing's Sono stati in concerto l'11 novembre scorso all'Alcatraz di Milano i Libertines, che sono i titolari della novità che vi propongo oggi, novità sempre fra virgolette, perché Up the Bracket è il loro album d'esordio, che è stato pubblicato nel 2002, ma è stato riedito nell'ottobre del 2022 per il ventennale, insieme a un dischetto live, che è quello che ci siamo ascoltati, Live the 100 Club, 4 ottobre 2002. Ribadisco, 100 Club è un locale storico di Londra, su Oxford Street, dove appunto hanno registrato molti artisti, molti band. Il brano che ci siamo ascoltati dai Libertines era il brano di apertura di questo dischetto live, si chiama Horror Show. E dopo la novità che apre la seconda parte, arriva sempre la seconda parte di Città Fujiko Live Club, arriva sempre Record Today, i brani che sono stati registrati nella giornata odierna nel passare degli anni. Ancora una volta, a costo di essere il massimo del tedioso, vi dirò che ci sono tantissimi brani registrati il 30 novembre e per cui il criterio di scelta risulta essere quello di un brano per ogni decade. E iniziamo dal 1968 insieme a una band che purtroppo è praticamente dimenticata, anche se negli anni 60 e i primi anni 70 era ai top non delle classifiche, ma sicuramente dei vertici della critica, ma anche di parecchio pubblico, soprattutto per i concerti. Si chiamavano Jefferson Airplane e furono attivi appunto dal 1965 al 1973, e poi ci sono state diverse riunioni. Nel 73 si trasformarono, dopo alcuni cambi nella formazione originale, si trasformarono in Jefferson Starship, ma quella è tutta un'altra storia. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Blessed Pointed Little Head ed è il loro primo album live, che è stato registrato fra il Fillmore East e il Fillmore West. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è una cover di un brano di Donovan Leitch. Donovan è un altro personaggio dimenticato, che mi pare di aver letto che dovrebbe uscire, starebbe per uscire un nuovo album proprio in questi giorni. Donovan ha partecipato insieme ai Beatles alla spedizione in India, ebbe un grandissimo successo negli anni 60, poi è un po' scomparso nel nulla, adesso pare che stia ritornando. Il brano si chiama Fat Angel ed è stato registrato al Filmorista. A questo proposito vi annuncio subito che la prossima trasmissione, la prima parte, verterà su registrazioni del film West. Offrirne il destro è il nuovo cofanetto fantastico di Tom Petty and Heartbreakers. Ma rimaniamo insieme a Jefferson Airplane. Fat Angel era il 30 novembre 1968. that you'll be so very kind. You found Lo ripeto, una grandissima band, quella di Jefferson Airplane, l'hanno dimostrato in questo brano, Fate Angel, anche se non era un brano loro, lo ripeto, era un brano di Donovan Leitch, ma l'hanno trasformato a modo loro in una cosa psichedelica ai massimi livelli, veramente notevole, registrato il 30 novembre del 1968, Fillmore East di New York City. Passiamo al 1977 e cambiamo radicalmente musica, radicalmente approccio musicale, radicalmente un tipo di approccio musicale completamente anomalo rispetto a quelli dei Jefferson Airplane. Siamo nell'ambito del jazz, o di quello che veniva chiamato jazz rock, rock jazz o fusion, chiamatelo come volete, ma è sempre una grande musica quella dei Weather Report. Sto parlando di loro, è una band che è stata attiva dal 1970 al 1986, è formata da due grandi musicisti, Wayne Shorter al sax e Joe Zevin alle tastiere, che sono stati gli unici due elementi sempre costanti nella band. Poi sono avvicendati grandissimi musicisti, soprattutto grandissimi bassisti, con l'apice arrivato con Jaco Pastorius, che adesso ci andremo ad ascoltare. Si chiama Live and Unreleased, un doppio album che comprende appunto registrazioni dal vivo e mai pubblicate. L'album fu pubblicato nel 2002, quindi postumo, e contiene veramente delle perle notevoli, molto molto bello. E fra parentesi, Weather Report sono dei miei gruppi preferiti in assoluto. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è un brano di Way Shorter, scritto da Wayne Shorter, è stato registrato a Grand Rapids nel Michigan il 30 novembre del 1977 con Jacopo Astorius al basso. Si chiama Elegant People Weather Report, era appunto il 30 novembre del 1977. Purtroppo Wayne Shorter sta molto male, ha dei grossi problemi di salute e infatti negli Stati Uniti molti suoi colleghi musicisti jazz stanno organizzando concerti per raccogliere fondi per le sue cure, che come sapete negli Stati Uniti sono costosissime, non esiste il welfare che abbiamo in Italia, e però, qualsiasi modo vada a finire, Wayne Shorter ce lo ricorderemo sempre per della grande musica tipo questa che ci siamo ascoltati, Elegant People, sia musica sia come solista che come componente appunto di questi Weather Report che ci siamo ascoltati in una registrazione del 30 novembre 1977. Questi ne abbiamo visti un paio di settimane, no, un paio di mesi fa, oserei dire, un mese fa, qui a Bologna, a Locomotive. Sto parlando naturalmente dei Dream Syndicate, altra grande band fra le mie favorite, che sono per fortuna spesso dalle nostre parti. Loro sono originari di Los Angeles, in California, e sono stati attivi inizialmente dal 1981 al 1989. Poi, dopo qualche anno di scioglimento, parecchi, si sono riformati nel 2012 e stanno tuttora suonando in giro per il mondo e pubblicando album sempre all'altezza della situazione. Qualche tempo fa è stato ripubblicato il loro terzo album, che si chiama Out of the Grey, un album del 1986, ma come sempre è stato ampliato in un bellissimo cofanetto che vede inseriti tre CD. L'album originale, ancora una volta rimasterizzato a dovere, e nel secondo ci sono dei demos e delle outtakes, mentre il terzo contiene anche brani live, che fra l'altro due brani registrati il 30 novembre dell'85 concludono proprio questo cofanetto. Il brano che vi propongo è quello che proprio finisce, è il 21esimo brano del terzo dischetto ed è stato registrato al Stone di San Francisco il 30 novembre 1985. Si chiama Blood Money, loro sono Dream Syndicate. This is Blood Money. Take it on faith. Top of the line. Beg, borrow, steal, a fast escape. So light a house of bricks. Take X speakers in the back. Take a walk after midnight and work it. Questo è gravissimo, perché questo è un album ufficiale, non dovrebbe fare questi scherzi purtroppo. Ogni tanto c'è dell'incompatibilità fra i miei CD, che a casa suonano benissimo, e questi CD, che fra l'altro adesso è ripartito, per cui ve lo lascio. Dream Syndicate. Something about wrongs don't make a right. No, they don't know. It's not that simple. Cantante e chitarrista Frank Ural fondò i Poi Dog Pondering, che è la band che ci siamo ascoltati, alle Hawaii nel 1984, e malgrado si sia poi spostato prima a Austin, Texas, e poi finalmente in maniera definitiva a Chicago, Illinois, lui è sempre rimasto il leader di questa band. Attorno a lui hanno girato decine e decine di musicisti. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Everybody's Trying ed è tratto da un album che si chiama Liquid White Light, doppio album live per questi Poi Dog Pondering, che è stato registrato al Vic Theater di Chicago, che in quel momento è tuttora la loro città di location, dove sono di stanza, il 30 novembre del 1996. Poi Dog Pondering. Vengono dall'Irlanda invece Frames, band che viene fondata nel 1990 da Glenn Hansard, che suona la chitarra e canta, ed ha anche una carriera solista molto molto avviata e molto nota, soprattutto negli Stati Uniti, dove è anche spinto, avvantaggiato dall'amicizia con il cantante dei Pearl Jam, che prima o poi mi verrà in mente come si chiama, e che appunto ha usato Glenn Hansard come apertura nei concerti propri del tour di un paio di anni fa. E Frames invece è la band appunto di Glenn Hansard, e che viene colta in questo momento in un album che si chiama Setlist, nel Vicar Street, un locale di Dublino, il 30 novembre 2002. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama God Bless Mom, ce lo presenta lo stesso Glenn Hansard. It's called God Bless Mom. You see how hard it can be to keep your side of the deal. Si chiamano Frames, il brano che ci siamo ascoltati invece si chiama God Bless Mom, Dio benedica la mamma. È una cosa un po' particolare rispetto alla musica che abbiamo ascoltato. Il tutto registrato, come vi dicevo, il 30 novembre del 2002 in quel di Dublino. L'album si chiama Setlist. Prima di passare al brano che conclude, che concluderà per meglio dire, Ricordi Today, ma anche Città Fujiko Live Club, vi ricordo l'abbonamento Radio Città Fujiko, che ci permetterà di proseguire con questa nostra carriera assolutamente indipendente, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista, diciamo, fra virgolette, politico. E ci sono tante modalità, ma più che starvele a dire, vi rimando al sito della radio, radiocittafujiko.it, naturalmente senza accento, e lì troverete le spiegazioni in maniera più dettagliata rispetto a quello che posso darvi io. Ma mi raccomando, fatelo, perché è un bene che praticamente l'unica radio indipendente che è rimasta a Bologna rimanga attiva. No, I'm back to business. And La seconda cosa, prima di concludere, è quell'evento un po' particolare di cui vi ho già parlato. Domenica 4 dicembre alle 17 presso la parrocchia di Sant'Antonio da Padova alla d'Aosta, in via d'Aosta 5/2, il Vangelo delle canzoni di Bruce Springsteen. Una cosa un po' particolare, è un incontro con Luca Miele, che è autore di un libro che si chiama Il Vangelo secondo Bruce Springsteen, e Don Giuseppe Scimè, che, come vi dicevo, pare sia un springsteiniano convinto. Ci saranno foto, video, talk, eccetera eccetera, il tutto presentato da Giacomo Fabiole o Giacomo Fabiole. Conclusione, aperitivo finale, quindi questo non fa mai male. A concludere quindi sia la trasmissione che Ricordi tuoi di oggi, arrivano a trasmissione che vi ricordo si chiama Città Fujiko Live Club, va in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25. A concludere arrivano gli Specials, una band che mi piace tantissimo, sempre una grande allegria mettono. Il loro penultimo album, che è uscito nel 2019, si chiama Encore, un album che è uscito dopo tanti scioglimenti, tante ricongiunzioni, tante cose. Comprende una versione, anzi Encore si chiama l'album, è uscito in versione singola ma anche in versione doppia. E la versione doppia comprende dei brani dal vivo registrati sia al Troxy di Londra nel novembre del 2016 che oramai purtroppo famoso Bataclan di Parigi il 30 novembre del 2014. Il brano che ho scelto per voi è un brano che non è propriamente ottimista, è stato registrato appunto il 30 novembre del 2014 ed è un brano che si chiama Enjoy Yourself Is Later Than You Think. Per chi non avesse capito il mio pessimo inglese, goditela perché è più tardi di quanto tu pensi. Quindi ecco, dopo con questo invito degli Specials vi saluto e vi lascio direttamente a loro. Ciao a tutti da Nevio. Yes, Terry. I've got a lovely bunch of coconuts. Wisdom, get knowledge, and understanding. Those three were given free by the maker. Go to school, learn the rules, don't be no faker.